Viva Voce con Alessandro Milan. Sono le 9:06, gentili ascoltatori, ben ritrovati. 800 24 00 24, questo è il numero per intervenire in diretta. La mail vivavoce@radio24.it. Parliamo ancora del caso di Eluana Englaro, in stato vegetativo dal gennaio 1992. Sapete che Eluana Englaro, i familiari di Eluana Englaro, hanno ottenuto nel luglio scorso un decreto della Corte d'Appello che riconosce il diritto a sospendere l'alimentazione e l'idratazione artificiale che tiene la figlia in questa condizione. Un decreto che è definitivo, ma una vicenda che invece sembra senza fine. Due giorni fa era tutto pronto per il trasferimento a una casa di cura a Udine, a casa di cura città di Udine, ambulanza già inviata a Lecco per prelevare Eluana Englaro, quando c'è stato un atto di indirizzo emanato dal ministro Sacconi, con il quale sostanzialmente si ricorda che nelle strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate col pubblico devono essere garantiti a tutti nutrizione e idratazione, a tutti i pazienti, anche i disabili gravissimi. In quell'atto non si cita il caso di Eluana Englaro, non si cita alcun caso, ma se non altro per la tempistica si è bloccato tutto. Chi non si adegua avrà conseguenze immaginabili, ha detto il giorno dopo il ministro. Ieri dalla clinica friulana c'è stata un'accusa molto forte, a dire dal ministro sono arrivate intimidazioni. Parliamo ancora una volta del caso di Eluana Englaro. Io saluto e ringrazio il presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Renzo Tondo. Governatore, buongiorno. Buongiorno. Starà con noi in apertura per qualche minuto. Lo ringrazio perché rompe un riserbo che l'ha caratterizzato in questo, tutto questo periodo sulla vicenda Englaro. Alle 9:09, il caso di Eluana Englaro. Presidente Tondo, le faccio sentire cosa ha detto ieri, come avrà sentito anche lei, ma lo facciamo sentire ancora una volta a tutti i nostri ascoltatori, quello che ha detto Claudio Riccobon, che è l'amministratore delegato della clinica città di Udine. Ieri ha fatto una conferenza stampa, ha detto tra l'altro questo. Una struttura sanitaria su base volontaria in forma gratuita si rende disponibile a dare applicazione ad un decreto di Corte d'Appello ratificato dalla Corte di Cassazione, ormai inoppugnabile e definitivo. Ed un ministro della Repubblica cosa fa? Lancia intimidazioni cercando di colpire l'azienda nel suo interesse vitale. La casa di cura ribadisce la propria disponibilità nei confronti della famiglia Englaro, a patto però che la Regione Friuli Venezia Giulia si prenda la responsabilità di condividere questo percorso che noi riteniamo di civiltà e soprattutto di pietas. Presidente, partirei dalla coda. Riccobon ha detto che la Regione condivida questo percorso di pietas, un appello alla Regione, come dire, fate una mossa concreta. Lei come lo interpreta? Ma intanto io le anticipo che ho deciso di rompere il riserbo per invitare al riserbo. Quindi da me non avrete grandissime novità oggi, perché credo che la cosa migliore in questo passaggio sia appunto di invitare ciascuno a mantenere il senso della misura. Io credo di averlo fatto in questa fase complessiva di queste settimane, questi mesi. Aver alzato troppo il dibattito su questo, a mio avviso, averlo portato anche a un livello di scontro non aiuta nessuno, non aiuta a dare una risposta alla richiesta della famiglia Englaro, confermata nel suo diritto, non aiuta a definire bene gli ambiti della questione. Quindi io su questo francamente ho sempre scelto una linea molto riservata e credo che nei confronti della clinica ci ascolterò quello che mi diranno nelle prossime ore, perché io non ho ancora incontrato nessuno, non voglio neanche affrontare nell'immediato questo momento. Come ho già avuto modo di dire, io ritengo che l'indirizzo del governo non abbia a produrre effetti, ma che poi la scelta debba essere in qualche modo ribaltata sulla Regione, così come viene richiesto oggi, mi pare francamente una cosa su cui non posso esprimermi, anche perché si tratta, come ho avuto sempre modo di dire, di un atto tra privati, tra un privato che si vede riconosciuto il diritto, il papà di Eluana Englaro, riconosciuto in Cassazione, e un altro privato, un'azienda, una clinica che si è dichiarata disponibile a fare in modo che questo diritto possa essere esercitato. ribaltare sulla regione. In questo momento mi sembra una cosa su cui non mi sento in grado ancora di intervenire. Senta Presidente, lei ha già detto l'atto di indirizzo del Ministro Sacconi non può produrre effetto, ha già spiegato che il Friuli Venezia Giulia è fuori dal sistema sanitario nazionale dal 96, credo. Ma il Friuli Venezia Giulia nel 96 fece una scelta di federalismo coraggioso e responsabile, fu una scelta in cui si decise sostanzialmente di negoziare con lo Stato 2 decimi dell'IVA in più a fronte delle risorse, appunto, del fatto di uscire dal sistema sanitario nazionale. Alla lunga questa è stata una scelta responsabile, perché ha costretto la regione di fatto a fare i conti con se stessa, a non rincorrere come si fa ogni fine anno il ministro con i quattrini, il ministro del bilancio, per farsi dare le risorse. Se tutte le regioni avessero fatto così, oggi avremmo un sistema sanitario più equilibrato. E ha sentito Rico Bon però parlare di intimidazioni nell'atto di Sacconi, addirittura lei condivide questa parola? Ma io ho detto questo, il governo ha fatto un intervento, una circolare che a mio avviso non produce effetti, mi è sembrata forte l'espressione del ministro di dire che quella in cui ha detto che avrà conseguenze inimmaginabili. È un'espressione forte. Lei nel suo blog inizialmente aveva detto di condividere al 100% la battaglia di Beppino Englaro, questo almeno lo può confermare, cioè è ancora su questa posizione? Ma la mia posizione personale l'ho espressa sul mio blog ben prima che la vicenda scoppiasse, perché come forse si sa Beppino Englaro è un abitante della mia Carnia, lo conosco da molto tempo, conosco la famiglia, so tutto di questa vicenda e in tempi non sospetti, quando ancora la mediaticità non aveva preso il sopravvento, io avevo proprio espresso nei confronti di questa vicenda parere favorevole, che ovviamente dal punto di vista personale è assolutamente riconfermato. Una cosa è il parere favorevole di una persona che ho espresso appunto in tempi non sospetti, una cosa è il parere che deve dare il Presidente di una regione, che deve farsi carico di tutta la regione, non solo del suo parere personale. Ho ancora un paio di domande, ma lei non si sente di rischiare di andare contro anche politicamente? Lo so che in questa vicenda di politica forse ce n'è un po' troppa, ma politicamente contro il governo? Il sottosegretario Roccella ha detto se rompe rompe il governatore. Io ce ne sono contro il governo in questo momento, proprio l'ultima delle mie preoccupazioni. Ha sentito il ministro Sacconi? L'ha cercata? No, non ci siamo sentiti. Nel senso che ha provato oppure no? Neanche. Ma no, perché credo che la politica e non solo la politica dovrebbe fare un passo indietro rispetto a questo. Un'ultima domanda e la ringrazio e la saluto. Lei ha detto di recente so come andrà a finire, facendo intendere che in realtà l'ultimo atto di Eluana Englaro poi si compierà nella sua regione. No, mi riferivo al fatto che ero stato messo a conoscenza in maniera riservata, dissi so come va a finire, quando ancora non si sapeva, o almeno la gran parte dei cittadini non sapevano che sarebbe, certo, quella vicenda sarebbe stata gestita assieme alla clinica città di Udine, quindi mi riferivo a questo. Adesso che però la notizia... Evidentemente c'è stata questa impennata e quindi adesso devo dire non so come andrà a finire. Non sa come andrà a finire, non ha più questa certezza, non lei. No, perché appunto quando dissi quelle parole mi riferivo al fatto che ero stato messo a conoscenza appunto della venuta alla clinica città di Udine. Poi c'è stato questo ulteriore elemento e su questo francamente devo riterare la mia posizione, devo dire non so come andrà a finire. Io Presidente la ringrazio per essere grazie stato con noi, grazie al Presidente Renzo Tondo, Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia. Poche parole, insomma, come avete sentito ha rotto il riserbo per mantenere comunque il riserbo, fa parte anche del carattere dei carnici, fa parte del carattere dunque del Presidente della Regione Friuli, però lo ringrazio perché ripeto fino a ieri, anche quando Qualunque giornalista lo avvicinava, diceva: di questo caso non parlo. Qualcosa invece di importante ci ha detto. Noi ovviamente continuiamo ora la discussione, 800 24 00 24, se gli ascoltatori vorranno, oppure via mail vivavoce@radio24.it. La portiamo avanti con due ospiti che saluto: il professor Gianluigi Gigli, che ritroviamo con piacere. Buongiorno professore. Buongiorno a voi e buongiorno al presidente Rondo, che però ci ha lasciato, come lei ben sa, poteva stare qualche minuto in apertura. Professore di neurologia all'università di Udine, proprio tra l'altro quella città e in quella regione in cui si sta discutendo del caso, soprattutto del caso di Eluana Englaro. Saluto la professoressa Patrizia Borsellino, che è vicepresidente della Consulta di Bioetica e insegna filosofia del diritto alla Bicocca Milano. Buongiorno professoressa. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti. Giusto per chiarire le posizioni, tanto si capirà, ma insomma è bene dirlo, il professor Gigli è sicuramente della posizione contraria sia al presidente Tondo, contraria alla sentenza che dà la possibilità di staccare l'alimentazione e l'idratazione ad Eluana Englaro, mentre la professoressa Borsellino la pensa all'opposto. Professor Gigli, ha sentito innanzitutto che effetto le fa sapere che nella sua Udine, nella Udine dove lei lavora, all'inizio si pensava addirittura nell'ospedale dove lei opera, poteva capitare, può capitare che si compia l'ultimo atto di Eluana Englaro, anche se Renzo Tondo ci ha detto: a questo punto devo rimodulare e dire non so cosa succederà. Ovviamente mi fa una grande tristezza, anche perché avviene o avverrebbe a pochi metri da casa mia. E il problema comunque credo che oggi sia un pochino più chiaro. Il presidente Tondo, come lei ha detto, è stato in qualche modo costretto a rimodulare la sua posizione e di questo prendiamo atto con soddisfazione. Ovviamente il tentativo, ovviamente il presidente Tondo è libero di pensarla come vuole dal punto di vista personale, ma il tentativo di far passare questa vicenda come un fatto privato o tra privati, tra la famiglia e la struttura privata, appunto, anche se convenzionata, è stato un tentativo, a mio avviso, un pochino di vista corta. Quando una vicenda ha a che fare con i fondamenti stessi dell'ordinamento giuridico, perché rimette in discussione un cardine fondamentale di questo ordinamento che è l'indisponibilità del bene vita, quando ha a che fare con i fondamenti stessi della professione medica e con gli scopi e le finalità delle strutture sanitarie, e quando ha a che fare con le pietre miliari della solidarietà sociale, in particolare verso i più fragili, i disabili, e allora non può pensare che questo rimanga un fatto puramente privato. E io credo che Tondo a questo punto debba anche prendere atto del fatto che a livello della sua stessa regione, che non, per la quale non vige un regime monocratico secondo il quale il presidente decide e dà le istruzioni, ci sono posizioni profondamente diverse. Perché se è vero, come è vero, che la regione Friuli Venezia Giulia è autonoma dal punto di vista finanziario per quanto riguarda il servizio sanitario regionale, è altrettanto vero, come gli è stato ricordato da parti autorevoli della maggioranza, che la nutrizione e l'idratazione fanno parte dei livelli essenziali di assistenza che sono tutelati dalla Costituzione italiana ed è compito dello Stato garantire il rispetto di questi diritti. Questo è un tema molto dibattuto, professore, come lei ben sa. In maniera uniforme su tutto il territorio nazionale. Sì. La regione quindi ha in materia di sanità delle competenze che concorrono con quelle dello Stato, è autonoma dal punto di vista finanziario, ma non può opporsi alle direttive del governo quando si tratta di tutelare il diritto alla vita e alla salute, che sono beni indisponibili e non usufruibili secondo criteri di carattere regionale. Questo gli è stato ricordato, ripeto, da pezzi importanti della sua maggioranza e io credo che Tondo, che deve rispondere anche a un elettorato, gran parte del quale si identifica con queste posizioni, non potrà non tenerne Vabbè, ma questa è una valutazione, l'ultima squisitamente, se mi permette, politica. Voglio dire, forse Tondo dice la politica è anche intervenuta troppo, o forse ha detto l'ultima cosa che mi interessa in questo momento è la considerazione politica. In ogni caso, professor Gigli, visto che lei ha posto anche un tema, ma la politica è intervenuta anche attraverso i silenzi dell'assessore Tondo, c'era, voglio dire, c'era un accordo, lui l'ha detto alla fine, e quindi questi silenzi hanno fatto parte essi stessi dell'azione politica, non scordiamocelo. Vabbè, io rimaniamo più sul tema strettamente, se si vuole, un po' medico, un po' anche filosofico e un po' giuridico. Io voglio ricordare che c'è una sentenza, e questo è importante da dire, c'è la sentenza che è definita ormai un decreto della Corte d'Appello, che ha passato anche il vaglio della Cassazione. Insomma, tutto quell'iter giudiziario nel quale si è mosso Beppino Englaro in tutti questi anni è portato a compimento. Addirittura il procuratore generale della Cassazione, il sostituto procuratore, ha detto: non è escluso che, se la famiglia lo volesse, si potrebbe addirittura utilizzare la forza pubblica, la forza di polizia. I carabinieri siamo nel ridicolo ormai, le istituzioni si stanno coprendo di ridicolo. Vabbè, insomma, volevo andare un attimo dalla professoressa Borsellino a capire, a ribattere sul tema sia medico e sia sul tema giuridico. Cosa ne pensa lei, insomma, di questa vicenda? La mia posizione è divergente da quella del professor Gigli. Si è parlato di tanto di politica. Io vorrei tornare a parlare di diritto e di diritti. Penso che sia importante farlo per comprendere, per far comprendere ad un'opinione pubblica che rischia di essere disorientata di fronte a, diciamo, le vicende in atto, tornare su diritto e su diritti per far capire qual è la posta in gioco. E allora ritornerei un momento proprio alla sentenza della Cassazione del 16 ottobre 2007, poi confermata dalla Corte d'Appello, e per mettere in evidenza questo punto, che il carattere di svolta di questa sentenza, a cui hanno fatto seguito le resistenze fortissime, l'offensiva senza esclusione di colpi anche sul piano della politica a cui stiamo assistendo, è consistita in questo: nel far sì che venisse riconosciuto il diritto anche di soggetti nella tragica condizione di Eluana, totalmente incapaci, a non essere privati dei diritti. Ecco, la dimensione dei diritti di cui godono gli individui che non si trovano in quelle condizioni, gli individui capaci, gli individui capaci di essere coinvolti nelle decisioni sulle cure. E allora quali diritti? Il diritto senz'altro a non essere privati dell'assistenza e quindi esercizio del diritto alla salute, nel senso di diritto di ricevere le cure appropriate indipendentemente dallo stato, dalla condizione in cui si trovano. Ma diritto anche a non subire cure, a non essere obbligati ad essere curati a tutti i costi. Quello che dice l'articolo 32 della Costituzione, ecco, cioè nessuno può essere obbligato. La Costituzione va preso sul serio e va letto integralmente, non soltanto nel primo comma, che qualifica come fondamentale il diritto degli individui ad essere a ricevere assistenza. E allora qui vorrei sottolineare anche l'importanza della diciamo invito alle strutture sanitarie a apprestare, a offrire un'adeguata assistenza, un'assistenza, come si dice, di supporto. Lascio un momento da parte la questione sull'idratazione, alimentazione, trattamento o misura di assistenza, ma il dovere delle strutture di offrire l'assistenza e i trattamenti ai soggetti in qualunque condizione, e dunque anche ai soggetti che si trovano in stato vegetativo permanente come Luana Englaro. Sì, e questo è un primo aspetto fondamentale. Il secondo aspetto, sul quale la fermo un attimo però, professoressa, che voglio dare anche ai primi ascoltatori, è il tema del quale abbiamo dibattuto e sul quale ovviamente la scienza si interroga e si pone domande, e cioè, visto che lei ha citato l'articolo 32, fatto di due commi, uno dei quali, il secondo, dice nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario, il tema sul quale si dibatte è: l'idratazione e l'alimentazione artificiale sono trattamenti sanitari, come ha detto per esempio la Corte d'Appello, e dunque rifiutabili anche da una persona che non lo può esprimere, ma attraverso un tutore, come in questo caso Beppino Englaro, oppure se sono dei livelli assistenziali assistenziali da garantire a tutti sempre e comunque e dunque non soggetti a rifiuto. Questo è il tema etico sul quale si dibatte molto. Io vorrei dare i primi ascoltatori all'800240024, poi c'è un attimo di pubblicità. Stefano da Roma, buongiorno. Buongiorno. Dunque, a prescindere, un saluto agli ascoltatori e ai partecipanti e un grazie a lei per la vita. Dunque, a prescindere il discorso etico di cui noi possiamo parlare, non so, per un secolo, due secoli, perché tanto in Italia i tempi purtroppo sono quelli, avendo le forti ingerenze che noi ben conosciamo, essendo purtroppo da questo punto di vista un paese fondamentalista e certamente non laico. Io, ecco, come medico e come appartenente a Cittadinanza Attiva, quindi parlo come cittadino, lasciamo perdere la mia figura professionale, vorrei che fosse sancita una questione, cioè definita, no? C'è una sentenza della magistratura e in qualunque caso una sentenza della magistratura che venga disattesa anche dallo stesso governo è sanzionabile dal punto di vista penale, cioè se c'è una legge come ad esempio la 194 con la possibilità di avere supporto per l'interruzione volontaria di gravidanza, da qualche parte questa persona nel Servizio Sanitario Nazionale, va bene, ha diritto ad usufruire di quella legge. Sì, lei dice c'è una sentenza esecutiva e va applicata. Il papà di Eluana debba andare in clinica privata, perché se non ci fosse stata la collaborazione di medici come me o come altre persone che sicuramente faranno perfettamente, che cosa avrebbe dovuto fare il papà di Eluana? Avrebbe dovuto pagare per avere sancito rispettato un diritto di una sentenza della magistratura? Sì, scherzando. Grazie Stefano, no? Grazie per la sua opinione. Voglio andare a Livorno da Giampiero. Buongiorno Giampiero. Buongiorno. Dica. Io volevo dire al padre di Eluana, ma se Eluana così si sta guadagnando il paradiso, come fa lui a decidere di interrompere questo suo percorso? Guardi, non so, io non voglio interpretare il pensiero del papà di Eluana Englaro che non c'è, ma credo che lui le risponderebbe che lui non decide niente in questo momento, cioè la sentenza e tutto il percorso giudiziario che ha portato alla sentenza definitiva è un percorso che ha sancito quale è la volontà non del papà di Eluana Englaro, ma la volontà di Eluana Englaro, perché la Corte d'Appello ha sancito due cose sostanzialmente, una delle quali è che è stato accertato, questo da sentenza, poi discutibile o no, ma insomma da sentenza accertato, che la volontà di Eluana Englaro, attraverso testimonianze, attraverso racconti di amici, prima di avere quell'incidente, era quella di non volere questa condizione. Professor Gigli, lei, la sua posizione medica è molto chiara, la sua posizione etica è molto chiara, per esempio anche sull'alimentazione e l'idratazione artificiale, ma di fronte, banalmente le chiedo, da cittadino, di fronte a una sentenza esecutiva, lei ha già detto che non può venire la polizia, e per carità, insomma, spero anch'io che non si arrivi a tutto questo, però c'è una sentenza definitiva di questo Stato, è un iter giudiziario che è durato anni e anni, e alla fine c'è una parola fine, insomma, con una sentenza che è chiara. Io credo però che, al contrario di ciò che pensava l'ascoltatore che ha parlato precedentemente, sì, non esista nel nostro ordinamento giudiziario un diritto alla morte nelle strutture sanitarie e quindi un dovere delle strutture sanitarie di assicurare collaborazione a una procedura di morte. Per quanto riguarda la sentenza, poi la sentenza non dice fatto, questo, la sentenza non dice che c'è un diritto, c'è il diritto a rifiutare. La sentenza dice che c'è un diritto a rifiutare le cure. Benissimo, appunto, quindi se lo gestiscano al di fuori del Servizio Sanitario Nazionale, allora se non c'è intanto questo dovere del Servizio Sanitario Nazionale. Ma per quanto riguarda la sentenza, premesso che l'articolo 32 della Costituzione viene impropriamente tirato per la giacchetta, visto che era stato scritto per evitare il ripetersi dei crimini medici del regime nazista e invece ci sta riportando verso di fatto un atteggiamento eutanasico, e premesso che l'idratazione e la nutrizione, e parlo non da fonti sospette, parlo dalla fonte del British Medical Research Council, il quale nel 73 aveva detto che anche quella fatta in ospedale è da riconoscersi come assistenza di base e non come trattamento medico. Premesso tutto questo, la posta in gioco della sentenza è chiarissima, è stata l'entrata a gamba tesa della magistratura che ha tentato di legiferare in materia, e l'ha fatto impropriamente, perché ha sancito questa sentenza sulla base di due principi assolutamente mal fermi. Il primo, quello della irreversibilità, sì, della condizione di stato vegetativo. Abbiamo sentito proprio ieri dalle cronache il neurochirurgo di Torino, sì, che ha svegliato una ragazza definita anch'essa in stato vegetativo permanente. Lei però potrebbe insegnare a me, perché fa il neurologo, certo, che come dice il professor Marino, che è passata una certa soglia di anni, credo 12 anni, non esiste caso al mondo di ritorno. Perché le dica Marino, che fa bene il chirurgo, non esiste assolutamente una certezza, esiste una probabilità sempre minore, ma non esiste una certezza di irreversibilità. Quindi la sentenza è monca dalle sue fondamenta, nessuno può dimostrare l'irreversibilità dello stato vegetativo. L'ha detto molto bene al TG1 il collega di ieri di Torino. Scusi, nella medicina i casi pari a zero non vengono considerati così, dice Marino, l'ha detto anche ai nostri microfoni, non essendoci alcun caso al mondo oltre una certa soglia di anni di ritorno, la scienza dice... La prova dell'irreversibilità, allora la sentenza andava formulata diversamente: esiste un diritto a farsi ammazzare, ma non sulla base della irreversibilità. Da quel punto di vista lì è assolutamente improprio. Allora, visto che facciamo un botto di risposta, professoressa Borsellino, replichi insomma sul punto, visto che lei insegna anche filosofia del diritto. Sono molto colpita perché le parole hanno anche una forte valenza emotiva, che si parli di diritto a farsi ammazzare, ma non entro in questo punto. Sento riproporre l'interpretazione dell'articolo 32, che costituisce un po' il cavallo di battaglia di coloro che condividono le posizioni del professor Gigli, come articolo che non è stato pensato con riferimento alla relazione terapeutica. Questo può essere contestato, soprattutto la sconfessione più forte di questa interpretazione è fornita dal fatto che il principio di volontarietà dei trattamenti è stato ribadito da tutti gli sviluppi successivi, potremmo dire dalla Costituzione. La Costituzione vivente ha trovato conferma negli ulteriori prese di posizioni normative poi recepite nell'ordinamento, dovrei citare Convenzione di Oviedo eccetera, ma anche gli interventi di carattere legislativo su singoli aspetti della pratica sanitaria, e questo mi limito a questo flash. Ecco, per quanto riguarda il fatto che la magistratura sia entrata a gamba tesa in questa materia esorbitando dai suoi poteri, io direi che la risposta migliore è quella che ha fornito la Corte Costituzionale nel momento in cui si è trovata a pronunciarsi sul conflitto di attribuzione che era stato sollevato congiuntamente da Camera e Senato, e dichiarare l'inammissibilità del ricorso, la Corte Costituzionale ha molto appropriatamente sottolineato che quando il conflitto ha oggetto atti giurisdizionali, il conflitto di attribuzione sussiste solo nel caso in cui vi siano indici chiari, incontrovertibili, che i giudici attraverso i loro provvedimenti hanno inteso esercitare funzioni normative di carattere legislativo, dettando regole generali oltre il caso di specie. E d'altra parte la Corte Costituzionale ha invece detto che assolutamente non può essere sollevato conflitto di attribuzione per censurare nel merito le decisioni delle corti, trasformando così il conflitto di attribuzione in un mezzo atipico di impugnazione nei confronti delle sentenze del giudice, che è proprio quello che è stato fatto nel caso in questione. Lasciatemi dare ancora un paio di ascoltatori. Paolo da Udine, buongiorno Paolo. Ah, buongiorno. Dica. Buongiorno. Ecco, io ho questo dubbio, che poi me l'ha rafforzato anche il professore con il suo intervento legato... Sì. Al discorso di ieri della risveglio. Che differenza c'è tra la signora Eluana ed un ragazzo incidentato al quale viene dichiarato l'encefalogramma piatto e vengono esportati gli organi per i trapianti? Perché allora a questo punto i medici che fanno l'estrazione degli organi dovrebbero essere denunciati, secondo Sacconi, per omicidio, io dico, forse esagero. E non si farebbero, secondo quello che dice il professore, visto l'intervento di ieri a Torino, non si faranno più interventi di trapianto a favore di altre persone, visto che c'è questa, secondo lui, possibilità illimitata di risveglio per le persone con encefalogramma piatto. Grazie Paolo. Professor Gigli, vuole replicare a Paolo? Una cosa sì, assolutamente impropria dal punto di vista medico e scientifico. La morte cerebrale, non è, che è la condizione che è premessa per i trapianti, non ha niente a che fare con la situazione dello stato vegetativo. Questo è vero. Il stato vegetativo non è un paziente in coma, è un paziente che si sveglia e si addormenta, è un paziente che viene messo in carrozzina, è un paziente che non ha nessuna macchina e nessuna spina da staccare. Questo va ribadito ancora una volta. È un paziente che viene solo alimentato e non ha bisogno di altri farmaci. Detto questo, è tornando al tema invece in dibattito, ricordo alla professoressa che il professor Mori, che lei ben conosce perché fa parte della stessa, certo, è presidente della Consulta di, esatto, cui la professoressa è vice. Far vedere come questo non sia un caso singolo e che quindi la Corte Costituzionale, la Corte di Cassazione sia entrata a gamba tesa, ha ribadito Mori in un suo libro recente che qui siamo di fronte a quello che lui ha definito una nuova porta via, con l'occasione quindi di far cadere il bastione di una sacralità della vita difesa dalla classe medica. Questo l'ha detto Mori in un libro che ha la prefazione dello stesso papà dell'Englaro. Guardi, e devo... mi meraviglio quindi di un uso strumentale di questo. Devo dire che lei cita, insomma, il professor Mori l'avrà letto anche ieri lei sull'Unità in un intervento invece molto molto critico, molto duro nei confronti dell'atto di indirizzo del ministro Sacconi, molto critico nei confronti. Avrà letto anche questo, professor Gigli, questo dico per completezza. Di dare appunto uno scossone all'ultimo bastione della sacralità della vita. Beh, questo sì, è l'obiettivo questa è la sua opinione. Andiamo da un paio di ascoltatori. Fabio da Milano, buongiorno. Buongiorno. Dica. Volevo semplicemente dire che mi sento indignato rispetto a questa situazione, perché in una nazione dove comunque, come diceva Stefano all'inizio del suo intervento, esiste la 164 e ogni anno vengono eseguite decine di migliaia di aborti, dove giustamente uno Stato tutela la libertà degli individui di scegliere, in questo caso della vita di altri, trovo decisamente ignobile il fatto che uno non possa decidere della propria vita, della vita dei propri cari in una situazione come quella di Eluana. Purtroppo questo è diventato una bandiera, un baluardo da difendere, e spero che la società civile sia talmente forte da rivendicare la libertà degli individui razionali e consapevoli. Grazie. Comunque e sempre. Grazie Fabio, forse si riferiva alla 194. Se rimaniamo sempre in provincia di Milano, da Claudio, buongiorno. Claudio? Pronto? Dica. Sì, buongiorno. Credo che se si sia potuto dire indignato il precedente intervenuto, lo posso fare anch'io per il semplice fatto che la parola diritto, che è stata usata continuamente durante questa trasmissione, in realtà poi si può usare o non usare, ma in realtà poi bisogna riempirla di contenuti. E comunque qui, come diceva poco fa il professor Gigli, si tratta comunque di stabilire il diritto, detto decisamente virgolettato, a sospendere una cosa che idratazione e alimentazione poi significa mangiare e bere, quindi sopprimere un handicappato grave. Quindi il riferimento al nazismo che ha fatto il professor Giglio è assolutamente pertinente. Il professor Gigli non ha fatto riferimento al nazismo riguardando questa cosa, ha detto che l'articolo 32 della Costituzione è stato scritto per evitare quello che i nazisti facevano. Spero professore che non... Curiosamente sì, tutto comincia nel 1938, nell'inverno, e 70 anni fa, tra il 38 e il 39, quando un padre, il signor Knauer, ma lasciamo stare, potesse essere soppresso. Claudio, mi perdoni, siccome almeno questa ha detto la professoressa Borsellino, le parole sono importanti, lasciamo stare il nazismo con questa vicenda, per favore. Professore, almeno cioè lei l'ha riferito riguardo all'articolo 32, non spero che non volesse accomunare questa vicenda, il nazismo, no, a questa vicenda. Che paradossalmente oggi si rischia di stravolgere l'articolo 32 nato per proteggere la gente dei, sì, crimini. Sì, e questo nazisti, l'ha detto, ma non è che vuole accomunare la vicenda Englaro a... Ma io credo che la vicenda Englaro, se la vogliamo dire tutta, costituisca la premessa. In questo senso Mori parlava di un bastione per far entrare in Italia una legislazione sull'eutanasia, questo sì, però bisogna dirlo. Vabbè, questa è la sua opinione, ma voglio dire, non la vuole accomunare, no, perché l'ascoltatore secondo me aveva equivocato il suo accenno alla questione del nazismo e da come era nato, secondo lei, l'articolo 32, al voler fare il salto e paragonare questa vicenda, insomma, a vicende che, ripeto, non vabbè, ma chiudiamo questa parentesi. Saluto Carlo Alberto De Fanti, neurologo medico storico di Eluana Englaro. Buongiorno, professor De Fanti. Buongiorno. Allora, prima vediamo di migliorare il collegamento. Intanto, quando lei non era collegato in apertura, il presidente Tondo del Friuli Venezia Giulia, insomma, rompendo anche il riserbo che sta mantenendo in questi giorni, anche se ci ha detto non posso dire molto, insomma, mantengo un certo riserbo, però le cose più importanti che ci ha detto innanzitutto sono le mie certezze di qualche giorno fa, ora si tramutano in un non so effettivamente come andrà a finire, contrariamente a quanto avevo detto qualche giorno fa, cioè bisognerà vedere ora la situazione. Lei ci può confermare che, insomma, un paio di giorni fa era tutto pronto, nel senso che anche lei aveva la valigia in mano, diciamo, per sì, era stato fatto un lungo lavoro di preparazione, era stato, ma poi è apparso anche sui giornali a posteriori, era stato redatto un protocollo assistenziale molto dettagliato, erano stati individuati nominalmente proprio gli infermieri che avrebbero assistito Eluana su base volontaria, il medico che l'avrebbe avuto in cura, il dottor De Monte, e il mio ruolo era in quel momento molto marginale, avrei accompagnato fisicamente Eluana in ambulanza nel trasporto quando è arrivato lo stop proprio all'ultimo momento. Naturalmente questo stop è stato dovuto all'intervento del ministro Sacconi, che ha lanciato una sorta di avvertimento, di minaccia alla clinica, e la clinica, in modo che tutto sommato posso ben capire, si è fermata. Che ne pensa, insomma, il presidente Tondo, come detto, non ha più le stesse certezze di prima. Lei, io non so che cosa intenda, è sicuro che ci muoviamo su un terreno difficile, scivoloso, di conflitto tra poteri, oltretutto potere esecutivo, il potere giudiziario. Abbiamo una sentenza passata in giudicato che sarebbe assolutamente traducibile in pratica, e abbiamo l'esecutivo che cerca di ostacolare in tutti i modi questa cosa. Io sono veramente costernato da questa vicenda, che mi sembra che ci faccia porre dubbi sul fatto che noi siamo ancora uno stato di diritto. Professore, c'è anche il professor Gigli, che lei, e la professoressa Borsellino, il professor Gigli che lei conosce bene, insomma, avete opinioni ovviamente divergenti su questo. Il professore ci ha detto, riferito al caso di Torino che è uscito sui giornali questa mattina, un miglioramento di una ragazza che è in coma, in stato vegetativo, in stato permanente di coma, non permanente, in stato vegetativo da credo 2 anni. Il professore dice, è la dimostrazione, come è la sua opinione, che anche quella sentenza in definitiva, nella quale uno dei due principi accertati della sentenza era che lo stato di Eluana Englaro è irreversibile, è una sentenza che poggia su basi discutibili, nei quali non c'è una certezza scientifica invece. Ma dunque devo dire un paio di cose. Una è che la scienza è una cosa maledettamente complicata, e che al giorno d'oggi non si può trarre, non è considerato corretto trarre nessuna conclusione dall'osservazione di un caso, perché naturalmente fra l'altro i soggetti in stato vegetativo non sono tutti uguali, il tipo di lesione che hanno differisce da caso a caso, e il fatto dei colleghi di Torino di mostrare al pubblico intero i loro risultati in questo momento è uno dei tanti interventi a orologeria, tra virgolette, come si usa dire in politica, che serve proprio per mettere un'ulteriore zeffa in questo processo. l'intervento di Torino non ha niente di straordinario. Interventi di stimolazione cerebrale su questi ammalati sono stati fatti almeno da oltre 10 anni, a partire dal Giappone. La stessa il caso famoso di Terry Schiavo è poco noto alla stampa, ma era stata anche sottoposta a uno di questi interventi senza successo. Ora, trarre da un singolo caso, che oltretutto aveva una durata di 2 anni, delle conclusioni su Eluana è assolutamente ingiustificabile. Io vorrei andare da un'ascoltatrice, Simonetta da Milano, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Dunque, volevo dire, io non parlo né come medico né come legale, ma diciamo, ecco, parlo in nome della cosiddetta casalinga di Voghera. Benissimo. Quello che mi colpisce di questa vicenda è che si insista continuamente dicendo Eluana ha espresso questo desiderio, Eluana avrebbe voluto così. Ora io mi chiedo, la volontà di una 19enne non può nel corso della vita cambiare? Perché un conto è prendere una decisione in una determinata età, in certe condizioni, e un conto è esprimersi teoricamente. È un tema sul quale si dibatte, i critici per esempio della sentenza dicono la volontà espressa allora è una volontà confermata dopo l'incidente. Simonetta, però lei così non vorrebbe il testamento biologico, che forse avrà letto, si sarà informata? No, ecco, direi che il testamento biologico sono le volontà espresse prima, quando uno poi non le può più esprimere. Il mio discorso, io insisto su questo tasto, che la volontà può cambiare, le faccio un brevissimo esempio. Ma anche col testamento mia mamma per tutta la vita ha detto voglio essere cremata, cioè si vede che da ragazza aveva letto troppo sepolta viva, non so che dire. Sì. Beh, a 90 anni ha cambiato idea, ha detto no, non voglio io dico, non sto parlando di testamento biologico, che dico che ognuno di noi fortunatamente cambia idea nel corso della vita. Ma sua mamma ha avuto la possibilità di esprimerlo, dopodiché il testamento biologico sono le volontà espresse prima che succeda per esempio un incidente e dopo uno non le può più esprimere. Allora con questo principio non si potrebbe neanche avere il testamento biologico, perché uno potrebbe dire dopo l'incidente la persona potrebbe aver cambiato idea, e come si fa ad accertarla se non la può più esprimere materialmente? Professor Gigli vuole replicare, siamo in chiusura, abbiamo un minuto, vuole replicare al professor De Fanti? No, saluto Carlo Alberto. Le posso chiedere, fare una domanda molto secca? Sì. Visto che il dottor Ricco Bon, l'amministratore delegato, ha parlato di percorso di pietas, sì, le chiedo, lei professor Gigli, nei confronti di Beppino Englaro non prova, cosa prova? Cosa Guardi, pensa di lui? Io provo ovviamente pietas, ma la pietas nei confronti del padre, a mio avviso, non può essere trasformata in un diritto a togliersi di fronte alla vista di una figlia disabile. Questa è la mia personale opinione. Per quanto riguarda quello che diceva il professor De Fanti, che saluto cordialmente, io sono totalmente d'accordo con quello che dice lui, ma lui deve essere ugualmente d'accordo con me che, così come i casi sono l'uno diverso dall'altro, la definizione di stato vegetativo irreversibile è oggi ampiamente criticata dalla letteratura scientifica internazionale, è stata rimessa in discussione. Si può parlare di maggiore o minore probabilità, ma lo stato vegetativo cosiddetto irreversibile, questo è un fondamento di quella sentenza, sì, non esiste. Su questo io mi devo fermare, aprirebbe ovviamente un ulteriore dibattito, ma insomma il tempo per oggi è finito e chissà se torneremo a parlarne e in che termini nei prossimi giorni. Io ringrazio tutti quelli che sono intervenuti, dal presidente Tondo, la professoressa Borsellino, il professor Gigli e il professor De Fanti. In redazione Alessandro Marco Tulli ed Elisabetta Fusconi, Giorgio Matei in regia, scriveteci pure a vivavoce@radio24.it. A domattina.